Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, siamo decisamente in tempo di vacanze, di viaggi, di escursioni, tempo anche di incontri con culture diverse e tempo di migrazioni turistiche in quel bacino, quello del Mediterraneo, che è stato un'area di scambio e di intrecci per diversi millenni. E di questo proprio ci parla in una chiave particolare Alessandro Vanoli, che è uno storico del Mediterraneo, in particolare dei rapporti tra mondo cristiano e mondo musulmano, e che ha scritto Storie di parole arabe, il racconto di un mondo mediterraneo, pubblicato da Ponte alle Grazie, 148 pagine, 13,50 €. La storia del Mediterraneo può essere raccontata in tanti modi, a conferma di quanto sia importante la circolazione di uomini e culture di cui per secoli è stato protagonista e palcoscenico questo mare. Di questa circolazione, scrive l'autore, Le varie lingue, le loro parole sono sempre state uno degli specchi più importanti, e da qui questo piccolissimo glossario, così l'autore definisce il suo libro, ossia una raccolta di storie dove protagoniste sono le parole. Storie incentrate tutte, scrive, su quell'idea di continuo scambio che ha segnato per secoli le coste del Mediterraneo. Le parole o gli spunti sono 16, alcune di uso quotidiano come zafferano, pepe, divano, e tutte ci aprono gli autentici mondi da scoprire, ma anche mete da rileggere o da raggiungere. Soprattutto queste parole ci danno il mondo di un senso che è quello della storia, dell'idea stessa di radice e di appartenenza, che si è fatto estremamente debole, evanescente, per molti quasi inutile. E di questo adesso parliamo con l'autore. Buonasera ad Alessandro Vanoli. Buonasera a voi. Alessandro Vanoli, come spiega il suo libro, la storia ci aiuta ad affrontare il presente di un Mediterraneo che rimane crocevia di scambi di movimenti che molto spesso impensieriscono molte delle popolazioni di coloro che sul Mediterraneo si affacciano. Però questa non è una novità. Allora, la storia che lezione ci può dare? Guardi, ormai dopo tanti anni a fare questo mestiere non sono così sicuro che la storia sia capace di dare gran lezioni, se no avremmo imparato qualcosa perlomeno. Credo che la storia possa al limite aiutarci a vedere meglio, ecco, quello che abbiamo di fronte, e a vederlo in profondità soprattutto, perché quello che forse oggi ci manca è riuscire a cogliere l'aspetto profondo e il fatto che in questo aspetto profondo ci siano delle nostre radici, anche nelle cose più sconvolgenti come quelle che capitano nel Mediterraneo oggi, cioè questi enormi, giganteschi spostamenti di uomini, questi enormi cambiamenti, persino la violenza in un certo senso. Il suo primo capitolo si apre con una parola, anzi con due parole, arabi e musulmani, per dimostrare appunto che la realtà è molto più complessa di quanto non immaginiamo o non ci rassegniamo a ritenere. Appunto, il mondo arabo non è tutto un mondo musulmano e viceversa. Ah no, naturalmente, certo, questo è un vecchio problema che purtroppo sul piano mediatico non è mai stato recepito molto chiaramente, cioè il fatto che il mondo musulmano è complicato, tutto qua, come anche il mondo occidentale è complicato, il mondo cristiano, cioè qualsiasi generalizzazione cela in realtà una complessità enorme che nel momento in cui la si va a guardare ci rende incapaci di cogliere l'insieme, ci rende tutto molto più difficile, ma anche tutto molto più bello, perché in realtà a capire che le cose sono più complicate ci si guadagna, secondo me. Gli arabi sono un insieme linguistico e sono un gruppo di persone che è un enorme, gigantesco gruppo di persone che fa riferimento culturalmente alla lingua araba. Le due cose non sono necessariamente la stessa. I musulmani sono tutti coloro che credono nella religione islamica, quindi all'interno vi sono ovviamente altri soggetti, cioè iraniani che parlano farsi, i pakistani che parlano urdu, eccetera eccetera, cioè una marea enorme di persone. Veniamo alla terza parola, la parola idolo. Questa è una parola che ci porta ad alcune riflessioni sulle religioni monoteistiche. Anche qui la storia degli idoli e della guerra che si è fatta in nome o contro gli idoli ha aspetti che risultano sorprendentemente attuali. Ah sì, guardi, credo che non avrei mai pensato a questa parola se non avessi così tanto per forza vissuto il presente, già a cominciare dalla distruzione degli idoli di Bamiyan, si ricorda, in Afghanistan agli inizi degli anni 2000, uno dei primi atti formali devastanti con cui si presentò il regime dei Taliban ai tempi, che poi dietro vi erano rivendicazioni politiche, non solo aspetti religiosi, cioè era una cosa complessa anche quella. Ma gli idoli mai come adesso fanno impressione perché parlano del nostro presente. Mai ce lo saremmo aspettati, cioè che si potesse davvero discutere di idolatria nel XXI secolo, ma è così. La guerra che usa le parole di religione, non vorrei mai dire la guerra di religione perché credo che sia un equivoco, ha portato con sé anche una nuova forma di accusa di idolatria. Tutto ciò che non è parte della purezza di un monoteismo qualsiasi può essere tranquillamente tacciato di essere un idolo. Sì, perché il problema dell'idolatria è che è un problema monoteista, non è un problema delle religioni, è un problema almeno di tre grandi religioni: cristianesimo, islam ed ebraismo. Le altre hanno altri problemi, ma non questo. Poi ci sono due parole che sono completamente diverse l'una dall'altra, ma che trasmettono due idee dello stesso oggetto, la casa, dar e bait. Qual è la differenza? Beh, dipende. Dipende anche dai contesti, in realtà, dove viene usata questa parola. Mettiamola così. Bait è la casa nel suo senso più concreto, nel suo senso fisico, i mattoni, le mura, eccetera. Ed è anche una casa che ha una sua storia antica, perché è legata ad altre lingue semitiche, c'è anche in ebraico, ad esempio, Betlem, la casa del pane, è una cosa viene dalla stessa radice, evidentemente. Casa dunque è bait in questo senso. Dar è una cosa un po' più ampia, mettiamola così. Dar può essere usato anche per indicare il territorio, l'appartenenza. Dar dà un'idea di girare attorno, come quello che si faceva forse nelle antiche carovane per segnare il punto dove si fermava il convoglio, no? E adesso indica tante cose diverse, indica appunto un territorio, può indicare invece negli usi correnti di certe zone del mondo arabo, che so, il palazzo. Quindi le parole si muovono comunque, indipendentemente anche dalle nostre facili definizioni. E veniamo a un'altra parola che è diventata di uso comunissimo, magari in questo periodo i nostri ascoltatori ne staranno facendo largamente uso, l'hammam, di cui, come lei scrive, sarebbe stato inimmaginabile il grande successo. Lei spiega, sarebbe stato difficile immaginare fino a pochi decenni fa il nuovo interesse globale che oggi alimenta bagni turchi e luoghi termali in generale, un fermento di investimenti, riaperture e restauri, una riscoperta di vicende storiche, spazi artistici, acque, fanghi, terme e massaggi hanno recuperato uno spazio sempre più ampio nella cultura contemporanea. Come se lo spiega lei? Ah, non so quanto abbia a che vedere del tutto con l'Islam in questo caso, diciamo che è un insieme di cause forse. Allora, dal punto di vista della storia di quello che si chiama Hammam, c'è una tradizione antica che prima di essere islamica in realtà è greca e soprattutto romana, perché le terme romane insomma sono all'inizio di questa storia, che poi ha una sua complessità, una sua evoluzione, il mondo islamico le eredita e le reinterpreta moltissimo queste strutture. Naturalmente più o meno il senso rimane lo stesso, un calidarium, un frigidarium, un tepidarium, insomma tutte quelle che cose che gli ascoltatori più o meno conoscono se ci sono stati, ma è il senso profondo che cambia, perché si aggiunge un senso religioso, l'idea dell'abluzione rituale, il senso dell'accostarsi al sacro, purificati dall'acqua, e anche un senso sociale che per alcuni versi è nuovo. Tutte queste cose arrivano fino quasi al nostro presente. Come noi le incameriamo è più complicato, perché da una parte c'è il fascino dell'Oriente. Noi cominciamo a guardare gli hammam che siamo ancora nell'età moderna, li guardiamo anche con quel tanto di pruderie tipica di coloro che non capiscono e che ci mettono dentro tanto del loro. Insomma, basta guardare un quadro dei naturalisti francesi per capirlo, è pieno di donne più o meno lascive, di eunuchi sudati, tutto quell'immaginario romantico lì, no? Quella paccottiglia lì, da quel punto di vista. Il resto è il nostro bisogno di wellness. È tutta una questione anch'essa molto contemporanea, che però non necessariamente ha a che fare con l'Islam. Il nostro bisogno di ritrovare un senso profondo nel nostro rapporto col corpo, che è una cosa recente invece, ha trascinato con sé probabilmente anche una riscoperta di questi luoghi. E le due cose vanno assieme quasi alla perfezione, perché a noi l'Oriente porta dentro questa idea di benessere. Basti guardare lo yoga, cioè nella semplificazione occidentale dell'Oriente, perché l'Oriente non esiste ovviamente, c'è quest'idea che in Oriente sanno far meglio le cose per star bene, no? Lo fanno gli indiani, lo fanno forse i musulmani con la mamma, eccetera. Questa è la semplificazione. La realtà, fortunatamente, sono degli ottimi luoghi dove stare bene. L'ultima voce del suo piccolissimo glossario, come le definisce il suo libro, naturalmente è Mediterraneo, e lei sottolinea come fin dall'antichità si fosse accettata l'idea di una sostanziale unità, come lei scrive, del Mediterraneo, un'idea alla quale poi diede un impulso decisivo l'impero romano. Che cosa successe di quest'idea dopo le grandi scoperte geografiche? Lei sottolinea come fu soprattutto Brodel che restituì un'identità unitaria al Mediterraneo. Sì, nel senso moderno sì. Brodel e tutti coloro che lavoravano in quel periodo con lo stesso tipo di idee. Cioè a un certo punto abbiamo recuperato molte categorie che erano antiche, quelle dei greci ad esempio, quelle cioè che mettevano assieme due cose, il rapporto dell'uomo con l'ambiente e il fatto che l'ambiente determinasse in maniera molto profonda i comportamenti umani. Questo in realtà l'aveva già detto con altri toni Ippocrate, Galeno, cioè i medici antichi. Nell'Ottocento questo diventa una scienza, e diventa una scienza diversa, diventa una geografia umana, diventa anche tante altre cose, ma soprattutto per noi una geografia umana. E questa geografia che tutto sommato permette di pensare il Mediterraneo come uno spazio da guardare in modo unitario, perché ci si dice: se nel Mediterraneo c'è un clima solo, allora c'è un'umanità sola. Noi siamo partiti da lì. Poi c'era un'antica centralità, ma aveva natura diversa. Ecco, quella nuova è questa, quella che ci fa dire tutto sommato che chi si bagna su quelle rive è accomunato da una fratellanza che è quasi geologica. Oh, non è mica vero, naturalmente. È un'esagerazione bella e buona. E quindi che futuro è pensabile per il Mediterraneo? Ma forse la cosa migliore è credere all'esagerazione. Noi abbiamo bisogno di pensare che questa finzione onesta, intellettuale e complessa sia vera. Io credo proprio di sì, per due motivi che le dico. Da un lato abbiamo una vecchia frequentazione, e cioè non siamo forse fatti della stessa natura geologica, ma siamo fatti degli stessi scambi che ci hanno costruito in una storia di fatto millenaria. E quindi noi siamo così perché il Mediterraneo ci ha bagnato sulle nostre rive. E si potrebbe davvero su questo scrivere una storia nostra che sia mediterranea, perché è una semplice convenzione scrivere la storia pensando alle nazioni, è una convenzione estremamente moderna, contemporanea quasi. Invece si potrebbe scrivere una storia altrettanto reale e altrettanto importante per le nostre radici che partisse da uno spazio più largo. E questo è il primo punto. Il secondo punto, forse altrettanto vero e urgente, e cioè il fatto che il Mediterraneo da solo non basta. Se lo si comincia a guardare su queste forme geografiche enormi, si scopre anche un'altra cosa: che sia o non sia il centro del mondo cambia poco, ma sicuramente è una parte fondamentale di una enorme, gigantesca rete che forse non ci ha unito, ma certamente ci ha legato commercialmente, culturalmente, a mondi lontanissimi. Detto in soldoni, il Mediterraneo è stato da secoli e millenni il punto d'arrivo delle grandi tratte asiatiche. E noi abbiamo imparato e costruito la nostra civiltà anche grazie a queste. Questa è la cosa probabilmente più attuale che abbiamo davanti. Queste tratte sono qui che stanno arrivando verso di noi, anzi sono già arrivate. E sono quelle che in qualche maniera stanno determinando il nostro presente e il nostro futuro. Dobbiamo ricominciare a guardare la storia senza pretendere che essa ci insegni niente, semplicemente per guardare a quelle radici che forse abbiamo un po' dimenticato, guardandone altre altrettanto vere, cioè quelle radici che fanno di noi una parte importante ma non fondamentale di un mondo gigantesco ed estremamente più ampio. Il Mediterraneo, a guardarlo bene, ci racconta proprio questo. Il futuro prossimo è fatto di questo. Grazie ad Alessandro Vanoli, autore di Storie di parole arabe. Buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie mille. E a proposito di scambi e migrazioni, queste le migrazioni non turistiche, vi segnalo il libro Il sogno fasullo di Amadon Cane e Giulio Garau, pubblicato da Infinito, 108 pagine, 13 euro. Galao è un giornalista a Trieste, Cane è un cittadino di origine senegalese che arrivò in Italia negli anni 90. Cane arriva clandestinamente in Italia dalla Francia, ma il suo non fu un viaggio disperato sui barconi, arrivò in aereo e poi riuscì a passare la frontiera e qui nel libro racconta le peripezie fino all'arrivo in Friuli, dove Cane inizia una nuova vita che ha fatto di lui un mediatore linguistico e culturale, un interprete molto impegnato nel volontariato. Ma il senso del racconto del libro sta nella conclusione, quando Cane torna nel suo paese. È una prospettiva che egli propone ai suoi stessi concittadini, quella cioè di non abbandonare il proprio paese, e lo fa alla luce delle difficoltà a integrarsi nonostante tutto in Italia. Infatti scrive nel suo libro: dopo oltre 10 anni trascorsi in Italia abbiamo comprato casa, la nostra famiglia è cresciuta grazie alla nascita di 3 figli, ma dopo tutto questo tempo questo paese che ci ha accolti e dato lavoro non ci ha ancora dato la cittadinanza, non siamo parte di questo Stato e nello stesso tempo in Senegal sono ormai considerati come gli stranieri. E quindi scrive ai suoi concittadini che il sogno che essi stessi stanno coltivando di appunto realizzare una nuova vita in Europa e in Italia può rivelarsi un sogno fasullo. Abbiamo rincorso un sogno, ma era fasullo. Ava, cioè la moglie, non lo dice apertamente, scrive, ma è ancora più convinta di me, lo si legge nei suoi occhi. Non abbiamo altra scelta se vogliamo ritrovare la felicità, concludere. Dobbiamo ritornare a casa, alle nostre radici, ricominciare il cammino in Africa. Ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Ma cos'è quest'estate? Semplice, l'appuntamento estivo con l'attualità di Radio 24. Le storie di cronaca più importanti, i numeri di un'Italia in continuo cambiamento e un po' di leggerezza sotto l'ombrellone. Ma cos'è quest'estate? Con Elisabetta Fiorito, Roberta Giordano e Deborah Rosciani. Dal lunedì al venerdì alle 8 su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Abbiamo parlato di mappe linguistiche per muoverci e capire il Mediterraneo e allora vi propongo un libro sulle mappe proprio, alle quali ci stiamo forse disabituando come oggetto fisico, ma che mantengono un alto valore simbolico come strumento per orizzontarci e non soltanto nella geografia. L'autore del libro che vi propongo è Tim Marshall, che è un grande esperto di politica internazionale, nonché grande reporter della BBC e di Sky News, che ha scritto Le 10 mappe che spiegano il mondo. L'ha pubblicato Garzanti, 316 pagine, 19 euro. Tradotto Roberto Merlini. Come scrive l'autore, la terra su cui viviamo ci ha sempre condizionato e influenzato le guerre, il potere, le vicende politiche e lo sviluppo sociale dei popoli che abitano attualmente quasi tutti gli angoli del mondo. La geografia, insomma, conta, ma troppo spesso, aggiunge l'autore, è stata trascurata. È trascurata, nonostante sia un elemento fondamentale, scrive, del perché e del cosa. E lo verificheremo anche nei nostri tempi, quando scopriamo, come ci spiega Marshall, che spesso crea grandi disagi e grandi sconquassi l'illusione di poter creare dei confini a tavolino, ignorando la topografia e la cultura geografica di una regione. Quali sono queste aree geografiche al centro del cambiamento del mondo? Sono appunto 10: la Russia, la Cina, gli Stati Uniti, l'Europa occidentale, l'Africa, il Medio Oriente, India e Pakistan, Corea e Giappone, America Latina e l'Artide. E l'autore conclude che il peso della geografia non è affatto destinato a esaurirsi. La Russia, per esempio, guarderà ancora ansiosamente verso ovest, al di là di quella che rimarrà una pianura. India e Cina saranno ancora separate dalla catena dell'Himalaya. Forse alla fine entreranno in conflitto tra di loro, ma in questo caso sarà la geografia a determinare la natura dei combattimenti. Dovranno sviluppare, spiega l'autore, una tecnologia in grado di consentire a una forza militare ingente di scavalcare le montagne, oppure, se questo resterà impossibile, nessuna delle due parti vorrà scatenare una guerra nucleare, dovranno confrontarsi sul mare. E l'analisi delle 10 aree calde consente a Marshall di descrivere bene i punti di forza e di debolezza delle aree interessate. Un vero e proprio atlante, invece, che ci potrà essere utile in queste settimane di vacanze, soprattutto per prendere alcune decisioni circa i nostri indirizzi, le nostre mete, è quello predisposto da Zhou Yu Yusha Foer, Dylan Turas ed Ella Morton, che hanno dato vita a un popolarissimo sito web, atlasobscura.com, che presenta oltre 600 luoghi in tutto il mondo, tra i più singolari e affascinanti. E adesso esce un'edizione cartacea, Atlas Obscura è il titolo, per l'appunto, l'ha pubblicato Mondadori, 488 pagine, 35 euro, con le traduzioni di Teresa Albanese, Gloria Cecchini e Francesca Mastruzzo. Il libro è voluminoso e pesante, da consultare prima di mettersi in viaggio per scegliere appunto mete insolite in tutto il mondo, che sono presentate con i testi, con le mappe, con i disegni, con le illustrazioni e anche con delle indicazioni pratiche. E un occhio particolare in questa edizione dedicato all'Italia, dove troviamo effettivamente luoghi noti e meno noti, per esempio la cattedrale vegetale di Oltre il Colle in provincia di Bergamo, i libri di legno di San Vito di Cadore e alcune anche realizzazioni contemporanee come il Tempio dell'Umanità di Damashun a Baldissero Canavese. Continuiamo con un'opera per così dire propedeutica ai viaggi. Anche questo è tutt'altro che uno strumento turistico, ma resta un libro ancora indispensabile per capire l'Italia e le sue molteplici e affascinanti differenze. È un libro del 1957 che raccoglie le trasmissioni che un grande scrittore e giornalista, Guido Piovene, che sarebbe morto nel 1974, aveva predisposto negli anni precedenti per la RAI in un reportage che era durato 3 anni, dal 1953 al 56. E ora questa sua opera ritorna meritoriamente riproposta da Bompiani, 912 pagine, 13 euro. E vi troveremo in queste pagine di Piovene, che visitò tutta l'Italia regione per regione. Vi troviamo, dicevo, ovviamente un'Italia spesso ormai riconoscibile, ma comunque affascinante per la capacità dell'autore di coglierne le particolarità, la forza, l'influenza della geografia e della storia, e soprattutto per la capacità di accennare ai primi cambiamenti che sarebbero poi culminati nella successiva età del boom e nelle trasformazioni inarrestabili che sarebbero seguite. Trasformazioni che lo scrittore guardò spesso con grande preoccupazione. Piovene in particolare fu molto sensibile e già le sue preoccupazioni sono mostrate in questo libro. Fu molto sensibile, dicevo, agli scempi ambientali che si avviavano proprio in quegli anni. Un'altra raccolta di incontri con luoghi e persone è quello di un altro grandissimo personaggio della cultura italiana, un giovanotto di 107 anni, Gillo Dorfles, che sempre con Bompiani pubblica Paesaggi e personaggi, curato da Ettore Rotelli, 318 pagine, 15 euro. Anche questo è un libro di viaggi particolari, perché, come scrive Adolfo Colonnetti nell'introduzione, si viaggia con la mente e il corpo, ma Gillo Dorfles ha sempre viaggiato anche nella speranza di trovare non tanto ciò che già conosciamo, perché abbiamo letto e ci siamo informati, quanto l'inaspettato, l'inatteso, ovvero tutte quelle esperienze che trasformano i nostri paradigmi e ci costringono a guardare con occhi diversi la realtà. E quindi questo è un libro pieno di sorprese. Troviamo le sorprese di Dorfles e quelle che Dorfles è capace di dare a noi. Un libro che raccoglie scritti di vari anni, in varie sedi, in varie occasioni, che sono raccolti appunto per mete in tutto il mondo e che ci danno il modo di conoscere o riscoprire molti luoghi anche apparentemente banali, per esempio Milano, di cui Dorfles ci dà un ritratto affettuoso, capace però di farci capire la trasformazione fisica subita negli anni, ma anche la permanente, perdurante ricchezza culturale di cui l'autore è ancora indiscusso protagonista. E sentiamo appunto come Dorfles ricorda questa Milano. Milano era una città tranquilla, piacevole e pulita. Una borgata contornata da un reticolo di fattorie periferiche, e prime tra tutte quelle concentrate all'Idroscalo. Naturalmente era molto più piccola, direi più familiare. Ma ricordo la meraviglia della mia prima visita al Cenacolo o lo stupore alla vista del Castello Sforzesco. Non parlo delle collezioni, ma dell'architettura. E in fondo Milano era soprattutto una città d'acqua. Passeggiavo lungo le sponde del Naviglio che attraversava via Senato e le altre vie centrali. Nel laghetto di San Marco ho fatto pure qualche gita in barca. I Navigli erano il trade union tra le aree più grandi. Da quando sono stati interrati, Milano è divenuta un insieme di edifici importanti accostati alla rinfusa. Un grande borgo che fatica a diventare metropoli a causa dell'assenza di un piano regolatore, anche se recentemente le cose sono un po' cambiate. Nonostante ciò, Milano ha sempre conservato una propria eleganza e rispetto per le persone e non si è mai fatta troppo aggressiva. Un un'altra ricchissima serie di ritratti è quella di un altro protagonista della cultura italiana, Alberto Arbasino, che ha raccolto per Adelphi ritratti e immagini, 354 pagine, 23 euro, dove troviamo una affascinante serie di protagonisti della cultura del Novecento, e non soltanto, ci sono anche incursioni nel passato, per esempio Parini, Rossini, Wagner, incontrati figurativamente in occasione di letture o spettacoli che li riproponevano. È un'opera gradevolissima, questa di Arbasino, nel quale ritroveremo la sua scrittura ineguagliabile e la sterminata curiosità dell'autore, che fa di questo volume una sorta di enciclopedia della cultura del Novecento. Abbiamo parlato poco fa di Milano, se volete riscoprirla magari nei prossimi giorni di calma, quando Milano si svuota e si offre col suo aspetto più simpatico ai turisti, vi propongo il romanzo di Milano di Tito Livraghi, che è un medico di fama internazionale, molto appassionato di Milano e che ha pubblicato questo libro con meraviglie, 192 pagine, 15 euro. Questo è un libro suggestivo anche per le immagini che lo arricchiscono, che racconta, o meglio, che fa raccontare la propria storia a un palazzo nel pieno centro di Milano, in via Borgo Nuovo, dove sorgeva una casa appunto distrutta dai bombardamenti nel 1943. Era una casa molto antica, del 1491, che, raccontando la sua storia e quella delle case vicine, affacciate su una delle più belle strade della città, offre uno spaccato della storia delle grandi famiglie di Milano e una sintesi della storia della città e dei suoi momenti più brillanti, per esempio il momento dell'illuminismo di Imbonati, di Verri e di Beccaria. Prima di lasciarci, festeggiamo la medaglia d'oro vinta pochi giorni fa a Budapest da Gregorio Paltrinieri con un suo libro, Il peso dell'acqua, pubblicato da Mondadori, 198 pagine, 17,50 euro, un libro nel quale il campione spiega come la carriera sportiva sia un'impresa innanzitutto con se stessi, in questo caso per fare pace con l'acqua. Poi vi segnalo, se volete fare delle incursioni letterarie durante le vostre vacanze, il sito www.parchiletterari.com, dove potete trovare regione per regione gli eventi estivi organizzati appunto nei parchi letterari, che in Italia sono ormai 17, che sono realizzati intorno alla memoria di grandi scrittori nati in quelle località. Sul sito troverete l'elenco delle visite guidate e degli eventi estivi che vengono organizzati. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo un grande autore classico come Roberto Piumini, che ha scritto Quello che finisce bene, pubblicato da Battello a Vapore, illustrato da Giovanni Darè, 158 pagine, 14 euro. Qui troviamo 9 storie di altrettanti ragazzi di estrazione geografica diversa che vogliono sensibilizzare ai diritti dell'infanzia. Infatti una quota dei ricavati andrà al Comitato Italiano per l'UNICEF. E alla fine del libro Bianca Pizzorno spiega ai giovani lettori la Convenzione sui diritti dell'infanzia. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.